Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi oggi in Parlamento, io non ne faccio parte, ma come ovvio il governo interloquisce col Parlamento, sta discutendo di una norma molto importante. No, sta buono, non è così. Non siamo qui a cercare di convincere, siamo a parlare tranquillamente. Ieri in commissione sono stati due voti, il voto è stato positivo. Ora alle 4 votano, quindi o hai doti di preveggenza, oppure e quindi o porti un po' sfortuna e quindi Quel manifestante lì in Calabria, dove era oggi Renzi per far visita, come sempre il mercoledì, a una scuola, in realtà non gli ha portato sfortuna, perché poi al Senato è passata la riforma sulle province. C'è stato, d'accordo, il voto di fiducia, che è un'arma, insomma, quindi è un po' difficile che non fosse votato il sì del Senato. Adesso però deve tornare alla Camera, quindi il voto c'è stato, torna questo disegno di legge Delrio per l'abolizione delle province, in realtà è una riforma delle province, passa alla Camera. Di questo parleremo più tardi, parleremo di tante altre cose. Fra gli argomenti di questa sera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche ci sarà il tema di questo kit anti-omofobia che doveva essere diffuso nelle scuole, degli opuscoli educativi contro il bullismo, contro la discriminazione. Il cardinal Bagnasco ha fatto sentire la sua voce, così è nato questo nuovo scontro tra laici e cattolici. Quindi il Ministero dell'Istruzione, che aveva avuto questa iniziativa per educare nelle scuole alla diversità e quindi all'accoglienza, ha bloccato questi kit. Oggi all'effetto giorno c'era il sottosegretario Toccafondi, che ha detto che è giusto così. Stasera ci sarà invece Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme, qui a effetto note. Sentiremo qual è il suo parere. Qual è il vostro parere invece sulla possibilità nelle scuole di educare all'accoglienza di tutti, insomma, al fatto di poter essere in un certo modo o in un altro comunque sereni e non discriminati? C'è sempre la pagina Facebook per voi di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ma vi vado a raccontare anche le altre notizie. La riforma delle province al Senato, il governo incassa la fiducia con 160 sì e 133 no. Ora il provvedimento torna alla Camera. Fisco, il reddito medio in Italia è di 19.750 euro, imprenditori più poveri dei dipendenti, e aumenta il divario tra ricchi e poveri. Obama sfida Putin, gas in Europa, via all'export. Stasera il presidente americano arriva in una capitale blindata. Candy Crush crolla al debutto a Wall Street. E per il calcio, un mercoledì di campionato, la Juventus capolista ospita il Parma, Milan in casa della Fiorentina, Napoli ospite del Catania. Iniziamo quindi dal voto di fiducia sulla riforma delle province, perché in realtà ancora, vi dicevo, non si parla di abolizione. Un voto di fiducia che è andato in porto, dunque. Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Un voto di fiducia che è andato in porto e non poteva essere altrimenti, essendo, Roberta, lo dicevi giustamente da studio, è la quarta fiducia a cui ricorre Renzi, considerando le due che lo hanno abilitato a guidare il governo. Veramente sarebbe una grande sorpresa qualora questa fiducia non fosse passata, ma ecco, il provvedimento del Rio senza fiducia avrebbe rischiato al Senato, ricordiamo ieri ci è andato vicino a cadere su una pregiudiziale di costituzionalità proprio su del Movimento 5 Stelle, no? È così. Solamente per la mancanza di alcuni senatori la cosa non è successa, per cui oggi il governo ha optato per il voto di fiducia, quindi ha blindato di fatto un provvedimento che svuota le province, non le abolisce, ma consente di non andare al voto adesso a maggio in ben 52 province, ve ne sono poi altre 23 anch'esse già commissariate, per cui è già un primo passo questo qui per una riforma delle province, che però potranno essere cancellate solamente con un disegno di legge costituzionale. Quindi bilancio della giornata, come auspicava lo stesso Renzi, voto incassato sul provvedimento Delrio. Si deve tornare però a questo punto alla Camera, perché ci sono state alcune modifiche, e il testo va approvato entro il 7 aprile, proprio per evitare che a maggio mezzo si torni a votare per le province. Per cui ecco, per il momento esame superato per quanto riguarda il governo Renzi, ma che ha davanti a sé altre tappe fondamentali nel cammino delle riforme. Ricordiamo la legge elettorale, poi l'abolizione del Senato e via via gli altri appuntamenti annunciati da Renzi. Vincenzo, per chiudere, ma adesso Renzi ha un altro impegno tra poco, più tardi o no? Sì, alle tra mezz'ora riunisce i parlamentari, quindi sia del Senato che della Camera, proprio per fare il punto sulle riforme, in particolar modo sulla legge elettorale e sul Senato. È un po' un modo per incontrare le proprie forze parlamentari. Sappiamo che Renzi non è così rappresentato nell'attuale Parlamento, la sua componente nell'ambito del Partito Democratico. Ecco perché quindi questo incontro, forse l'obiettivo è proprio quello, un attimino di parlare chiaro e di ricompattare, perché gli appuntamenti delle prossime settimane sono molto importanti. Grazie Vincenzo Miglietta. Ciao. Grazie. Vincenzo. E questa mattina il presidente del Consiglio Renzi, vi dicevo, ha fatto visita a una scuola calabrese. Renzi ha anche parlato di lotta alla mafia e anche lotta al voto di scambio. Io garantisco che impegno comune della maggioranza è che una legge, spero il più velocemente possibile, sarà approvata. Una legge sul voto di scambio mafioso è impegno comune della maggioranza. Matteo Renzi torna così sul provvedimento, sul quale rimane sempre alta la tensione e la cui discussione alla Camera è stata spostata la prossima settimana. Lavoreremo su una formulazione migliore, dice il Premier parlando da Scalea, comune commissariato per mafia, occasione per fare anche il punto sulle altre priorità dell'agenda politica. La spending review, sulla quale spiega di condividere le parole del capo dello Stato Napolitano contro i tagli immotivati. Il Premier ribadisce poi di voler andare avanti su province, sul tetto dei manager. Basta con i privilegi e basta anche con il bicameralismo perfetto. Se il Senato non viene superato, se non iniziamo a mandare a casa un modello istituzionale e politico, smetto io di far politica. Durante la sua visita Renzi incontra anche gli amministratori locali, con loro affronta la questione dei fondi europei. Bisogna cambiare passo sulla loro gestione e sfruttare appieno le risorse che vengono da Bruxelles. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è arrivato un forte monito dal presidente Napolitano sulla spending review. Il capo dello Stato ha chiesto degli interventi con capacità selettiva, dicendo di attendere ancora il tempo delle scelte effettive rispetto alla massa dei dati finora raccolti, insomma ha detto di fare delle scelte di buon senso. Sul fronte economico intanto, mentre continuano ad andare bene le aste dei titoli di Stato, c'è da registrare un vero e proprio balzo della fiducia dei consumatori. Se i dati reali sono ancora di crisi, le prospettive, almeno quelle, sono incoraggianti. La fiducia dei consumatori registra infatti finalmente un balzo che la porta al valore più alto raggiunto dal giugno 2011. Lo rivela l'Istat, spiegando che a marzo l'indice del clima di fiducia ha raggiunto il valore di 101,7 da 97,7 del mese precedente, grazie ad un'impennata di rasserenamento dei giudizi, soprattutto sulla situazione economica e sul fronte occupazione. Si tratta della prima rilevazione dopo l'avvio del governo Renzi e molte attribuiscono alle riforme annunciate l'ottimismo che ha fatto salire l'indice legato alla componente economica di oltre 10 punti. La promessa degli 80 euro in più in busta paga, avvenuta il 12 marzo, può aver influenzato la fase finale della rilevazione Istat, ma neppure interamente, visto che l'indagine si è chiusa di lì a due giorni. Purtroppo però anche l'inizio del 2014 ha visto il settore del commercio al palo. Sempre l'Istat infatti fa sapere che le vendite al dettaglio risultano sempre in stallo, registrando a gennaio una crescita a zero rispetto a dicembre. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, il miglioramento della fiducia delle famiglie ancora non è in grado di stimolare i consumi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci anche della dichiarazione dei redditi 2012. Che ci dicono questi dati? Che ci sono pochi paperoni, metà degli italiani sono sotto i 15.000 euro annui e c'è un divario tra ricchi e poveri che si allarga. Lo confermano i dati del Ministero dell'Economia. Il 5% degli italiani detiene il 22% di tutto il reddito. Questo è il primo dato macroeconomico che balza agli occhi dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi 2012, quelle presentate cioè l'anno scorso. Dall'analisi presentata dal Dipartimento delle Finanze emerge anche un dato in parte inatteso. Mentre il PIL è sceso, sempre nel 2012, del 2,5% in termini reali, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione sono stati più di 41,4 milioni, in lieve aumento rispetto all'anno precedente. Inoltre, il reddito medio è pari a 19.750 euro, cioè in aumento, più 0,5% rispetto all'anno precedente. I dipendenti, anche se sono scesi di 160.000 unità nel complesso, per quelli che sono rimasti, cioè quasi 21 milioni, c'è stata una crescita dello stipendio, anche se di pochissimo, 20 euro al mese lordi in media. Ma i dati per classi di reddito sono duri. La metà dei contribuenti non supera i 15.654 euro lordi l'anno, mentre il 5% con i redditi più alti detiene il 22,7% del reddito complessivo, cioè più di quanto guadagni la metà dei contribuenti con i redditi più bassi. Saverio Fossati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chi se lo può permettere, si parla di macchine, di BMW, di Maserati, il governo italiano ha intanto aperto da oggi un negozio su eBay per la vendita delle 151 auto blu che si è impegnato, ve lo ricordate, a dismettere entro il prossimo 16 aprile. Nei prossimi giorni saranno messe in vendita le prime 25 vetture provenienti dal Ministero dell'Interno. E ovviamente c'è in primo piano il presidente americano Obama, non solo arriverà, sta arrivando in Italia. Oggi era Bruxelles per il vertice tra Stati Uniti e Unione Europea sull'Ucraina. Sono i valori di pace e di diritti sviluppati dopo due guerre mondiali ad essere in gioco in Ucraina, così ha detto Obama nel suo discorso pubblico. Europa e Stati Uniti proseguono nella manovra di isolamento internazionale della Russia. Il presidente americano Barack Obama da Bruxelles lancia l'avvertimento. The United States and Europe stand united on this issue. Stati Uniti ed Europa sono uniti nella questione ucraina, uniti nell'isolamento della Russia, avverte Obama nella sua prima visita alle istituzioni europee da quando è stato eletto presidente, né a remore nell'affermare che Mosca deve pagare dazio a livello economico per le sue mire espansionistiche nei confronti di Kiev e delle altre regioni straniere a maggioranza russofona. Obama fa intendere come voglia isolare Mosca, privandola della principale arma di ricatto verso l'Europa, quella della dipendenza energetica. Washington ha già autorizzato l'esportazione verso il vecchio continente di gas naturale, ha annunciato Obama, che ha aggiunto come quando sarà concluso l'accordo di libero scambio transatlantico tutto sarà più semplice. L'energia è il focus centrale dei nostri sforzi, ha precisato, e su questo fronte è già prevista un'accelerazione. Tra una settimana si terrà a Bruxelles il Consiglio Energia tra Europa e Stati Uniti, cui prenderà parte il segretario di Stato americano Kerry. Su un punto Obama bacchetta però gli alleati NATO quando dice che Washington è preoccupata dalla riduzione dei budget di spesa per la difesa da parte di alcuni paesi. L'Ucraina ci ricorda che la libertà non è gratis, dobbiamo pagare per avere una forza NATO credibile e deterrente. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, Obama è in arrivo a Roma, domani visita privata dal Papa, poi ci sarà l'incontro con Napolitano, con Renzi, ma ci sarà anche un Obama turista a spasso in una città naturalmente blindatissima. Siamo alla cronaca con la storia terribile dell'acqua inquinata per 700.000 persone in Abruzzo, reso noto il rapporto shock dell'Istituto Superiore di Sanità, che dà ragione ad anni di denunce di cittadini sui veleni diffusi nella falda della discarica Montecatini Edison di Bussi nel Pescarese. Sentiamo il microfono di Enza Loddo, Giorgio Zampetti, responsabile scientifico nazionale di Legambiente. La relazione dell'Istituto Superiore di Sanità non fa che confermare quello che anche come Legambiente denunciamo da tempo e anche come associazioni. A Bussi sul Tirino le discariche abusive, la non bonifica dell'impianto industriale ha causato in tutti questi anni un inquinamento non soltanto dei suoli ma anche delle acque, che si è poi riversato all'interno delle falde e da queste poi anche all'interno delle condutture che servivano l'acqua potabile. Per cui da una parte c'è una responsabilità da parte dell'azienda che ha inquinato, ma anche da parte degli enti che non hanno fatto i controlli in tutti questi anni e delle amministrazioni che non hanno informato dovutamente i cittadini. Ci auguriamo che con questa relazione e questo studio si possa finalmente mettere la parola fine sul sito di Bussi e iniziare un'attività di risanamento rapida ed efficace. In chiusura allo sport, ci sono brutte notizie, brutte previsioni dell'ex medico curante del campione di Formula 1 Michael Schumacher. Le sue condizioni, dice, non migliorano, anzi le possibilità di una totale ripresa sono molto lontane. A suo avviso sarà bene prepararsi al peggio. Oggi per il calcio è stato presentato il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, ma è anche una serata di campionato, vero Giovanni Capuano? Affollata questa serata. Sì, affollatissima, sono 8 le partite che si stanno giocando, sono 8 delle 10 partite della 30ª giornata, una si è giocata ieri, proprio quella della Roma che ha battuto 2-1 il Torino, una si giocherà domani che è quella che chiude la giornata ed è Inter-Udinese. Su tutti gli altri campi siamo arrivati circa alla mezz'ora E allora ti do i risultati. Sta vincendo la Juventus 1-0 con il Parma, ha segnato Tevez al 25esimo, un gol molto bello. Juventus che insegue la 15esima vittoria consecutiva in casa e sarebbe un record storico per il campionato di Serie A. Sta vincendo anche il Milan fuori casa a Firenze contro la Fiorentina, gara delicatissima, decide un colpo di testa di Mexès, ma metà del gol è per la punizione di Balotelli che ha costretto Neta una respinta corta. E poi c'è da segnalare il 2-0 del Napoli in trasferta sul campo difficile del Catania, gol di Zapata e Callejon. Catania sfortunato due volte, ha preso la traversa. 0-0 tra Genoa e Lazio, 1-1 tra Sassuolo e Sampdoria, i genovesi si erano portati avanti con Sansone dopo pochi secondi, il pareggio di Longhi in posizione di fuorigioco al 16esimo, 1-0 dell'Atalanta sul Livorno, gol di De Luca al 22esimo, 1-0 del Chievo sul Bologna, questa è una partita fondamentale nella lotta per non retrocedere, il gol su calcio di rigore di Paloschi al 7° minuto e invece pochi istanti fa Nenè ha portato in vantaggio il Cagliari sul Verona, dunque Cagliari 1, Verona 0. Come sai è tutto deciso in testa alla classifica, almeno per quanto riguarda il primo posto, però c'è questa gara tra Juventus e Parma che è una gara tra le due squadre che hanno la striscia più lunga di imbattibilità, un girone a testa praticamente, quindi è una gara comunque interessante. Poi ci risentiamo dopo naturalmente con Giovanni Capuano, invece leggo velocemente prima di dare spazio alla viabilità alcuni dei vostri messaggi che già stanno arrivando sulla questione del kit contro l'omofobia bloccato nelle scuole, dice un'ascoltatrice o ascoltatore, se viene bloccato è un ulteriore spreco di denaro. Duccio scrive che venga ripristinato subito il kit antiomofobia, non facciamo lo scendiletto delle posizioni di retroguardia. Ringrazio anche per il messaggio Beatrice. Poi Clotilde scrive, quando riusciremo ad affrancarci dai curiali e capire che siamo in uno stato laico e non teologico, certo non con il coniglio usurpatore. Non so bene a chi si riferisca, ma possa essere Renzi, non si capisce. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. La politica tra pochissimo con Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, ma prima vi ricordo che potete continuare a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di questi opuscoli per educare alla comprensione della diversità nelle scuole, che è stato bloccato, prima iniziativa del Ministero, poi annunciata la diffusione, poi bloccata e anche diciamo il Cardinale Bagnasco che è intervenuto su questa cosa. Ma prima vi ricordo anche i fatti principali della giornata. La riforma delle province, al Senato il governo incassa la fiducia con 166-133 no, ora il provvedimento torna alla Camera. Fisco, il reddito medio in Italia è di 19.750 euro, imprenditori più poveri dei dipendenti. Obama sfida Putin, gas in Europa via l'export e stasera il Presidente arriva in una Roma blindata. E poi per il calcio avete sentito che è un mercoledì di campionato pieno di squadre. Ciao Stefano Folli. Ciao, come stai? Sono in attesa di capire da te se questo passaggio al Senato, il voto di fiducia, andrà poi a buon fine anche alla Camera, nel senso che Renzi aveva detto in questi giorni vedremo chi vuol far pagare gli italiani province e Senato, perché in Senato c'è il voto palese, li guarderemo in faccia, ci devono mettere la faccia se vogliono continuare a fare i conservatori, a mantenere le province, eccetera, eccetera. Anche se sì, il voto, l'arma del voto di fiducia è in realtà un pochino ricattatoria, perché è difficile che uno voglia andare a casa se fa cadere il governo, poi se ne va a casa, no? Quindi era un po' scontato il risultato? Beh, insomma, diciamo che non è stato così scontato, perché nei giorni scorsi c'è stato del malessere della maggioranza sull'abolizione delle province, alla fine però voto di anche fiducia, attraverso il voto di fiducia, certo, certamente è stato un bel aiuto, un bel ausilio, però alla fine il risultato c'è ed è un risultato da non trascurare. Adesso il passaggio alla Camera finale sarà una formalità e quindi sulla riforma si può discutere, c'è chi dice che poteva essere fatta meglio, c'è chi dice che ha dei profili di dubbia costituzionalità, insomma ci si dicono tante cose, però non c'è dubbio che stasera è un punto a favore di Renzi e del governo. E stasera devo avvisare Stefano Folli, appena atterrato, arrivato in questi istanti l'agenzia Obama, è atterrato a Roma sull'Air Force One, l'aereo mitico su quale viaggiano i presidenti americani, quindi è arrivato, abbiamo detto, in una città blindata. Renzi avrà anche questo impegno in questi giorni, e non solo lui, ma insomma è pieno di impegni. Invece sul resto poi naturalmente le insidie non sono finite, no? No, cominciano adesso, perché la riforma delle province, per quanto sia stata anche faticosa, però è poca cosa rispetto alla riforma del Senato. La questione del Senato è molto più complessa. Io credo che il disegno di legge costituzionale debba essere anche un po' rivisto, perché ci sono degli aspetti che convincono poco, francamente. Questo Senato che dovrebbe trasformarsi in una specie di luogo dove si raccolgono ex sindaci, ex consiglieri regionali, tutti gratuitamente, non si sa bene a fare cosa. Mentre è giusto il punto di fondo, cioè che il nostro sistema deve diventare monocamerale, cioè il governo ha un rapporto soltanto con la Camera, è lì che chiede la fiducia. Il Senato deve avere invece delle diverse funzioni, e questo può essere utile, importante, la fine del bicameralismo. Però io credo che questo disegno di legge debba essere messo a punto, perché così com'è, a mio modesto avviso, non va tanto, e credo che i senatori avranno da obiettare. Stefano Folli, tra le varie cose che ha detto oggi Renzi, era in Calabria, no? Ha sottolineato molto il risparmio che ci potrebbe essere sui costi politici, abolendo le province, o meglio, adesso si parla appunto di una riforma, di uno svuotamento per il momento, ed è, diciamo, anche se si è detto tante volte che non ci saranno chissà quali straordinari risparmi, però diventa una misura di equità. Sentiamolo. Noi dobbiamo far capire come classe politica che è arrivato il momento di dire basta al fatto che guadagnano sempre i soliti e si inizia a tagliare sui costi e sui posti della politica. Ecco perché le province, ecco perché il superamento del Senato, ecco perché il tetto ai dirigenti pubblici che non possono guadagnare le cifre che in alcuni casi guadagnano. Insomma, è un argomento ovviamente diventato molto popolare, anche giusto, Stefano. Elettorale, il nostro Presidente del Consiglio, e si vede, non deve, secondo me, esagerare su questo terreno, nel senso che gli argomenti elettorali vanno bene, il populismo va anche bene in questa forma. Però ecco, dire che dal risparmio che verrà dal non pagare più le indennità ai consiglieri provinciali verrà il finanziamento per gli 80 euro che saranno dati da maggio in poi ai redditi bassi, ma francamente mi sembra un po' eccessivo. Ecco, è vero che siamo in campagna elettorale, però c'è un limite. Un limite, per esempio, lo dico in due parole, sono i tagli alla spesa, che è un bel problema, un problema molto serio che dovrà essere affrontato in termini politici più che tecnici. Oggi c'è stato quel richiamo di Napolitano a questo problema, e soprattutto Obama, che è arrivato a Roma stasera e ha detto che gli alleati della NATO non possono ridurre le spese per la difesa, e il riferimento agli F-35, gli aerei contestati, è molto trasparente. Anche questo se è un bel problema per Renzi, perché la ministra Mogherini degli esteri poco fa, 8:30, ha detto: sulle spese militari partiamo dalle esigenze e dalle minacce, cioè minacce dall'esterno, capiamo cosa ci serve e facciamo una revisione che non riguarda solo gli F-35, ha detto rispondendo a Lilli Gruber a proposito di cosa chiederà Obama all'Italia. Mi sembra che ci sia una certa cautela da parte del governo italiano rispetto ai propositi manifestati tempo fa, no? Quando si diceva che gli F-35 sarebbero stati accantonati in buona misura. Questa posizione espressa dal ministro degli esteri mi sembra molto più prudente, più cauta e più rispettosa delle esigenze dell'Alleanza Atlantica. Grazie Stefano Folli, ti ringrazio voi. Stefano, ciao, buona serata. Ciao. Intanto vediamo che da Sky TG24, vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. Si vede l'aereo bellissimo, l'Air Force One. Garanzia di stabilità e integrità per l'Italia. Un audio un po' disturbato, Obama, rumore sto aereo. Napolitano, dunque già arrivata, prima ancora del presidente che siamo. La scaletta è stata tirata giù ancora. Chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, questa è l'Air Force One sulla pista di Roma. Questo l'abbiamo capito. A Fiumicino, ma ancora non sta scendendo Obama, non compare. Allora invece compare Mauro Meazza in attesa. Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Ciao Mauro. Ciao, buongiorno, buonasera, anzi scusate, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera anche Obama, Mauro Meazza lo metteremo direttamente in collegamento con Obama appena si paleserà sulla scaletta, Mauro, quindi preparati. Però sì, intanto... sì, magari ci sentiamo dopo con il Presidente, non preoccuparti. Intanto riferiamoci a cose di casa nostra sulla dichiarazione dei redditi 2012, hai sentito insomma che gli imprenditori sono, prendono meno dei dipendenti, che il 50% degli italiani prende sotto 15.000 euro, una questione di povertà diffusa o di qualche furbo più di qualche? Ma secondo me ci sono entrambi i dati stavolta, infatti ci hanno offerto anche un confronto tra i dati del 2008 e quelli del 2012 e si vede che c'è un aumento ad esempio delle posizioni IVA aperte e una diminuzione dei lavoratori dipendenti, quindi dobbiamo desumerne che sia un effetto proprio della crisi, per cui espulsioni da un certo circuito lavorativo per cercare di rientrare in un altro. Poi ci sono le cose abituali, percentuali molto esigue, il 5% che paga il 22%, mi pare, vado a memoria, del reddito, del gettito, vabbè, ma questo, come dire, il club dei contribuenti forti è sempre appunto un club, è una cosa molto ristretta. Molto ristretta, elitaria quasi, diciamo, no? È un pochino elitaria, sì. Però come sai, sono gli ultimi giorni per l'invio di dati del cosiddetto spesometro, e questo noi domani lo presentiamo con 4 pagine sul Sole 24 Ore. Uno specialone. Una guida, perché questa è un'arma molto importante per contrastare l'evasione, appunto per cercare di ridare un equilibrio se non altro statistico a queste dichiarazioni. Speriamo che sappiano usare bene questa mole di dati enorme di cui adesso il fisco dispone e che quindi si possano togliere queste storture, così, per così dire, statistiche che vediamo poi tutti gli anni alla fine, Roberto. Va bene, caro Mauro, io aspettavo che scendesse il Presidente, ma a quanto pare niente, si vede che ha ancora da fare sull'aereo. Dimmi. Vedo se ce l'ho io sull'altra linea. Ce lo passo. Allora, domani con lo speciale molto importante sul Sole 24 Ore. Grazie Mauro Meazza, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Mauro. Niente, la porta è sempre lì, vuota, proprio... inequivocabilmente vuota, e quindi io a questo punto andrei in pubblicità, quando riapparirò a voi, forse sarà riapparso anche Obama, e vi ricordo potete continuare a scrivere i vostri messaggi al 349-238-6666, cioè gli sms oppure le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito, vi dicevo di quello di cui parleremo tra poco con il sottosegretario Scalfarotto, cioè di questi opuscoli che dovevano essere uno strumento di lotta alla discriminazione nelle scuole elementari e medie, che invece sono state bloccate poi dal ministero, perché è nata una diatriba tra laici e cattolici. Forse vedo un uomo che scende in modo atletico, e Obama sta scendendo ora, eccolo là, e viene sul suolo appunto italico incontro l'ambasciatore John Phillips, ambasciatore americano, e un'altra delegazione che appunto dà il benvenuto a Barack Obama. Proprio in fondo alla scaletta abbiamo appena visto in diretta l'uscita del Presidente degli Stati Uniti, che ora saluta le autorità che sono venute qui all'aeroporto di Fiumicino. Dicevamo, sì, tantissimi dossier sul tavolo Roma-Washington, sicuramente dossier sulla sicurezza, dossier anche per quanto riguarda il rapporto di alleanza in questo momento strategico tra Italia e Stati Uniti, sicuramente questo è un punto cardine. Quindi un sacco di cose da discutere tra Obama, Renzi, poi ci sarà Napolitano, poi anche la visita al Papa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, naturalmente, sempre, fino alle 21. Vi ricordo, prima del prossimo ospite, del prossimo tema, quali sono state le notizie più importanti della giornata. L'abbiamo seguito poco fa, Obama che è atterrato a Roma Ciampino alle 21.30, domani sarà in visita privata al Papa, poi l'incontro con Napolitano e Renzi. Province, passa la fiducia al Senato con 160 sì, Presidente del Consiglio ha superato la prima sfida, almeno per il momento, le riforme, dice, o vado a casa. Monito di Napolitano sulla spending review, no ai tagli immotivati, il governo lancia su eBay intanto l'asta per la vendita delle auto blu. E poi per il calcio, mercoledì di campionato con tante squadre in campo. E adesso parliamo dell'opuscolo della discordia, lo potremmo definire così, che in realtà la discordia, la discriminazione le voleva contrastare. Si tratta di un, come possiamo chiamarlo, è stato chiamato un kit anti-omofobia che doveva essere diffuso a scuola e di nuovo si infiamma lo scontro tra laici e cattolici, come spesso succede su questi argomenti ancora una volta in seguito a questa diffusione annunciata e poi in realtà rinviata nelle scuole elementari e medie di una serie di opuscoli dal titolo Educare la diversità, curati dall'UNAR, quindi non diciamo dal primo che passava, dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e doveva essere un kit informativo che rientrava tra l'altro nel piano di strategia nazionale LGBT, cioè in favore appunto contro la discriminazione di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali 2013-2015. Era stato lanciato 2 anni fa questo programma dal governo Monti, confermato dal governo Letta, con l'obiettivo di indicare a studenti e insegnanti come arginare l'intolleranza, il bullismo a scuola, quanti episodi abbiamo sentito negli ultimi mesi. Però questa cosa non è affatto piaciuta alle gerarchie ecclesiastiche, in particolare al Cardinal Bagnasco, che ha detto questo è indottrinamento, questa cosa distrugge le famiglie, quindi il Ministero l'ha bloccato. Sentiamo, prima di salutare l'ospite che c'è in linea, sentiamo cosa ha detto oggi a Effetto Giorno, intervistato da Simone Spezia, Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione. Noi come Ministero, e io in particolare, credo molto nella lotta alla discriminazione di ogni tipologia, ma un conto è la lotta alla giusta, alla discriminazione, e un conto è fare entrare nelle scuole altro, perché c'è questa cultura gender fatta da molte associazioni LGBT, cosiddette LGBT, che portano non solo e soltanto esclusivamente la lotta giusta alla discriminazione, ma portano altro. E che cosa portano? Concetti riguardo alla famiglia, famiglia composta da persone dello stesso sesso, possibilità da questa tipologia di famiglia di adottare figli, cioè, questo è un aspetto che riguarda particolarmente la famiglia stessa. Io ricordo solo che l'articolo 30 della Costituzione parla chiaro, è diritto dovere dei genitori istruire ed educare i figli. Toccafondi, di cosa ha timore? Di una sorta di indottrinamento omosessuale nelle scuole? Non tanto di indottrinamento omosessuale, ma di indottrinamento sì, cioè qualcosa che viene portato nelle scuole senza nemmeno ascoltare i genitori, mi sembra che qualcosa che non va ce l'abbia. Bene, per rispondere al sottosegretario Toccafondi all'istruzione, saluto Ivan Scalfarotto. Buonasera Scalfarotto. Buonasera. Benvenuto a Effetto Notte, sottosegretario PD per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Quindi la reazione di Toccafondi è stata questa, del cardinale Bagnasco, anche se mi chiedo, il Papa aveva da poco detto chi sono io per giudicare i gay, era un'iniziativa partita dal Ministero e è stata bloccata, Scalfarotto, come mai? Ma guardi, questa è un'iniziativa anche che risponde a delle linee normative e a una serie di atti dell'Unione Europea che ci richiamano da anni sulla situazione drammatica dei diritti civili in Italia. Noi siamo il fanalino di coda dell'Europa, in tutta l'Europa occidentale, fatta eccezione per la solita Grecia, non esiste altro paese, a parte l'Italia, che non abbia, non dico una legge sui matrimoni, sulle unioni civili o quant'altro, ma dico anche semplicemente una legge sull'omofobia, cioè per proteggere le persone LGBT dalla violenza fisica, dalla discriminazione. Noi siamo riusciti ad approvare la legge alla Camera dei Deputati, adesso langue al Senato. Una delle cose che mi propongo di fare è provare a tirarla fuori da questo limbo, perché noi, ripeto, non riusciamo neanche a discutere di questo. Io mi chiedo, quando il sottosegretario Toccafondi dice io sono a favore della lotta alla discriminazione ma non a questa roba qui, non dice come la fa la lotta alla discriminazione, perché se noi non cominciamo a dire anche nelle scuole che essere omosessuali o essere eterosessuali è assolutamente indifferente, ciò che è importante è che le persone trovino la loro strada per la felicità, per il loro equilibrio. Finché non facciamo questo e quindi non spieghiamo che esistono persone appunto che sono omosessuali, bisessuali, transessuali, che esistono persone che amano persone dello stesso sesso e che questo è assolutamente, che va bene, che è ok, noi la discriminazione non la combatteremo mai. Per cui il sottosegretario Toccafondi o mi dice come la fa la lotta alla discriminazione se non trasmettendo il principio e l'idea che, ripeto, non è l'orientamento sessuale delle persone a fare la differenza, così come non è il colore della loro pelle, non è la loro nazionalità, non è la loro religione, né delle loro abilità o disabilità fisiche, nulla deve fare la differenza. Allora, intanto che non, così come si dice che si può essere bianchi o neri e va bene lo stesso, va bene in ogni caso, si può essere alti o bassi, magri o grassi, italiani o stranieri, ebrei, cattolici o musulmani, e va tutto bene, si deve dire che va anche bene essere gay o lesbiche piuttosto che eterosessuali. Questa è la lotta alla discriminazione, se no che cos'è? Onorevole Scalfarotto, era una domanda che mi ero posta effettivamente anch'io, nel senso, si dice, infatti ha detto, poi l'abbiamo sentito, io sono per la lotta alla discriminazione nei confronti omosessuali, anch'io effettivamente mi chiedo allora in cosa possa consistere se non nel cominciare dalle scuole. Però sentiamo un'altra cosa che ha detto sempre oggi a effetto giorno il sottosegretario Toccafondi. Quando magari si entra nelle scuole e si vuol dire che la famiglia è formata da chiunque vuol stare insieme, punto e basta, a prescindere dal sesso di appartenenza, mi sembra che qualcun altro possa dire no, io la penso in maniera differente. Mm. Allora nelle scuole, soprattutto con i ragazzi più grandi, magari che ci possa essere il senso del contraddittorio, mi sembra, come dire, una forma educativa. Quindi istituirebbe un contraddittorio nelle classi sul tema come è composta la famiglia. Come possibilità. Mm. Scalfarotto, brevemente mi perdoni perché siamo un po' in chiusura, come risponderebbe a questa esigenza di contraddittorio che rileva Toccafondi? Ma che è molto buffo, perché quando ci si occupa di lottare contro le discriminazioni il contraddittorio non serve, perché la discriminazione è sbagliata, quindi non è che noi diamo voce a chi sostiene la discriminazione. Allora, se io invito un'associazione, diciamo, si parla di Shoah in classe, di Olocausto, non è che invito i negazionisti. Se vado a parlare di razzismo, della lotta al razzismo, mica invito il Ku Klux Klan. Allora, nel momento in cui io devo dire che una cosa è male, cioè che essere omosessuali è sbagliato ed è condannabile, devo dare questa voce, è una voce che secondo me non si spiega. Allora, qui dobbiamo metterci d'accordo. Se noi vogliamo di decidere che un ragazzo di 11, 12, 13 anni che sta scoprendo la propria sessualità e magari scopre di essere omosessuale, deve essere circondato da una scuola che gli dice non ti preoccupare, va tutto bene, potrai avere una vita felice, potrai avere una persona da amare, o dobbiamo avere una scuola che gli dice guarda, questo è un problema, sei sbagliato, non vai bene, perché per quello che sei non va bene. Chiarissimo, è stato chiarissimo, sottosegretario Scalfarotto. Ecco, ultimissima domanda proprio in pochi secondi. Lei fa parte del governo essendo sottosegretario, sarà la svolta buona anche in questo senso, visto che lo slogan di Renzi? Guardi, noi ci siamo impegnati a fare una legge sulle unioni civili, a approvare la legge sull'omofobia. Ora capisco che il governo in questo momento sta ingranando la marcia su dei provvedimenti estremamente importanti e molto delicati e difficili, però io mi aspetto che la parola data anche da Renzi durante le primarie, durante, diciamo, la campagna congressuale sia rispettata. Mm. Insomma, diciamo l'ultimissima cosa al sottosegretario Toccafondi: l'omosessualità non è che si impara a scuola, voglio dire, a me non me l'ha insegnata nessuno, sono omosessuale e la scuola non è che ho avuto l'indottrinamento. Sono omosessuale, però sono una persona serena, felice, realizzata, e penso che tutti in questo paese debbano avere lo stesso diritto che ho avuto io. Io ho avuto una famiglia forte alle spalle che mi ha spiegato che io andavo bene com'ero, che mi volevano bene comunque, e noi dobbiamo dire a tutti i nostri concittadini che il loro orientamento sessuale non fa di loro dei cittadini di serie A o di serie D. Chiarissimo. La ringrazio, onorevole Ivan Scalfarotto. Grazie e buon lavoro. A presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci ancora insieme, tra poco parleremo d'Europa, e però vi ricordo anche prima di tutto, come sapete, dopo le pause, quali sono state le notizie principali della giornata. Obama atterrato a Roma, intorno a Roma Fiumicino, intorno alle 21.30, domani ci sarà la visita privata al Papa, poi incontrerà Napolitano e Renzi. La riforma delle province, al Senato il governo incassa la fiducia con 160 sì, 133 no, ora il provvedimento torna alla Camera. Per il fisco il reddito medio in Italia è di 19.750 euro, gli imprenditori risultano più poveri dei dipendenti e aumenta il divario tra ricchi e poveri. Candy Crush crolla al debutto Wall Street, pensate, meno 15,56%, e poi una serata di campionato di Serie A che, del quale capiremo gli esiti più tardi con l'aggiornamento. Vi dicevo, l'Europa, ci avviciniamo verso le elezioni europee il 25 maggio, sentiremo ogni sera un partito diverso per la par condicio. Questa sera tocca all'eurodeputata Erminia Mazzoni del Nuovo Centrodestra, presidente della commissione petizioni e componente della commissione per lo sviluppo regionale. Al microfono la sentiremo di Paolo Panceri. Due tra gli obiettivi raggiunti dall'eurodeputata Mazzoni sono un bilancio, dice lei, senza decurtazioni pari a 54 miliardi di euro per l'Italia e un maggior coinvolgimento dei territori, in particolare delle città, nella riscrittura delle partecipazioni degli enti locali all'attività europea. Erminia Mazzoni non esclude inoltre la sua candidatura alle elezioni del 25 maggio e avanza alcuni suggerimenti al presidente del Consiglio Renzi in vista del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Europa 24 notte. Verso le europee. Può farci un riassunto della sua attività al Parlamento europeo durante la legislatura che sta per concludersi? Ho seguito tutto il pacchetto legislativo sulla politica di coesione, fondi strutturali e riprogrammazione dell'agenda 2014-2020. Sono stata correlatore del pacchetto legislativo e quindi ho partecipato ai negoziati. E il risultato è che oggi abbiamo un bilancio per la politica di coesione per l'Italia che non ha subito decurtazioni, quindi abbiamo comunque dall'Unione Europea circa 30 miliardi che sommati al cofinanziamento nazionale raggiungeranno circa 54 miliardi per il periodo indicato. Abbiamo una condizione, diciamo, di agevolazione rispetto alla possibilità di escludere il cofinanziamento dal calcolo del deficit strutturale. E abbiamo tra l'altro una riscrittura delle regole della partecipazione con un maggiore coinvolgimento delle autorità locali, quindi dei territori e in particolare delle città. Sta pensando a una sua probabile ricandidatura? È in discussione la mia candidatura, sto riflettendo su questa, ma sicuramente ho un obiettivo costruito in questi anni, anche un'idea di obiettivo da realizzare nella prossima legislatura europea, a prescindere dal mio impegno diretto. È un momento particolarmente rilevante quello che andiamo ad affrontare. Basti considerare che partiamo con il semestre di presidenza italiana e quindi al semestre di presidenza italiana toccherà il compito di dettare la linea per il periodo successivo. Da luglio parte il semestre di presidenza italiana. Che suggerimenti vorrebbe dare al Premier Renzi? C'è tutta la parte del pacchetto lavoro, c'è l'Industrial Compact e a ultimo c'è negoziato che comunque si è aperto la revisione dei parametri di Maastricht. Cosa pensa dell'affermazione dell'estrema destra al voto amministrativo in Francia? Ma io dico in generale le amministrative non sono dare una caratterizzazione politica e quindi non vedo questo risultato così incidente rispetto al prossimo appuntamento elettorale, rispetto alla formazione del prossimo Parlamento europeo. Dall'altro lato aggiungo che in questo momento di particolare difficoltà ancor di più si avverte nelle competizioni elettorali il peso della responsabilità del governo e poi senza dubbio Hollande ha esagerato, come in alcuni atteggiamenti si rischia di fare in Italia, sulla politica dei tagli senza tener conto che non si può rendere più efficiente un sistema e restituire dei diritti ai cittadini operando solo dei tagli. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Scusate, con Bruxelles la linea era un pochino disturbata. Adesso saremo un po' più vicino con l'ospite che saluterò tra poco. Parliamo dell'aereo scomparso lo scorso 8 marzo con 239 persone a bordo e alla fine si presume sia ormai precipitato il Malaysia Airlines 370 in mare nell'Oceano Indiano. E pare che ci sia però una svolta, nel senso che c'è una missione multinazionale tra cui Stati Uniti e Cina, composta di 12 aerei e diverse navi che stanno cercando oggetti in quell'area. Ieri hanno dovuto sospendere a causa del maltempo, sono ripresi oggi e tenete conto che però è un'area grande, 400 km quadrati, quindi molto grande. Saluto Francesca Manenti, bentornata qui a Effetto Notte. Buonasera, grazie mille. Analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Quindi sembrerebbe che ci sia una svolta perché sono stati avvistati 122 oggetti in mare. Sì, nelle ultime ore sono state le immagini satellitari che sono state fornite sia dalla Cina che dalla Francia, effettivamente hanno permesso alle autorità di identificare dei nuovi possibili relitti. Non è ancora però stato accertato che questi oggetti possano poi appartenere effettivamente all'aereo della Malesia. Però intanto continua la corsa contro il tempo per cercare le famose scatole nere, perché è lì che possibilmente con quelle si potrebbe far luce sulle vere cause di questa tragedia, di questo incidente, no? Anche se ho letto che dopo un tot di giorni smettono di mandare dei segnali. Che cosa significa, dottoressa Manenti? Assolutamente, le scatole nere praticamente contengono le registrazioni. E questo lo sappiamo. Che le registrazioni audio dell'aereo. Purtroppo però la batteria delle scatole nere ha un tempo limitato e quindi indicativamente entro 30 giorni la batteria si scarica e non è più poi possibile reperire le informazioni dalle scatole nere. Tra l'altro la tipologia di scatola nera presente sul Boeing 777 scomparso è possibile essere rintracciata solo a breve distanza, quindi comunque anche le attività di search and rescue che attualmente sono in corso in quell'area dovrebbero veramente essere molto puntuali per poter identificare la scatola nera in questione. Ma mi scusi, lei parlava di batteria, nel senso che non si possono recuperare e metterci dentro un'altra batteria per sentire che cosa è stato registrato, quindi? È possibile recuperare i dati, diventa poi difficile però riuscire a identificare la posizione della scatola nera, perché ovviamente smette di mandare il segnale. Perché quindi una scatola nera, una volta che precipita anche in fondo al mare o insomma da qualche parte che non sia la sua collocazione naturale, cosa fa? Emette delle onde, manda dei segnali per un tot di giorni, quindi? Sì, premetto che non sono un esperto di questioni tecniche, di segnali, anche su questioni di scatola nera. Posso sicuramente però confermare che una volta caduta in mare la scatola nera è proprio predisposta per mandare dei segnali in modo tale da permettere la localizzazione. Ma quindi a questo punto, finché non si troveranno, sperando che si trovino almeno per capire che cosa è successo, Che ipotesi si fanno? Si continuano a fare tante ipotesi diverse sulle cause di questo incidente? Incidente, non sappiamo appunto, a seconda delle motivazioni per cui è caduto in mare. Dottoressa Manenti, non la sento più, mi sembra di sentire quasi una scatola nera a questo punto, forse c'è qualche problema. Ecco, il cellulare adesso si sente meglio. Manda i segnali il cellulare in questo momento. Esattamente. Le possibili cause non sono ancora state identificate, ovviamente sembra sempre più plausibile l'ipotesi di un incidente, quindi che sia ormai stata scartata l'ipotesi di un dirottamento per poi portare l'aereo in qualche aeroporto o in qualche pista misteriosa. Purtroppo però non è ancora stato possibile accertare appunto quali potrebbero essere le cause di un eventuale incidente, quindi se un guasto tecnico oppure ancora una volta un eventuale dirottamento finito male. Comunque adesso è accertato, insomma, purtroppo per queste 239 persone è finita lì. E dal quadro informativo attualmente a disposizione sembrerebbe sempre più plausibile poter affermare questo. Grazie dottoressa Manenti, grazie Francesca Manenti. Grazie a lei. Del CESI. Ancora pochi secondi per leggere qualcuno dei messaggi che sono arrivati sulla pagina Facebook a proposito del kit antiomofobia. Elena dice: cara Roberta, dovremmo segnalare ai vari politici che intervengono e interverranno su questo argomento che il nostro è uno stato laico. E poi Rosetta dice: mi piacerebbe leggere questi opuscoli, sul contenuto sono d'accordo a priori, credo però che si possa dissentire sul modo di presentare i ragazzi. Insomma, tante le opinioni come sempre su questo argomento. L'importante è, come effettivamente poi diceva Scaffarotto, fare anche dell'educazione in questo senso, in modo da evitare le discriminazioni, i tanti suicidi che avete sentito negli anni, negli ultimi mesi, tra gli adolescenti, tra i più giovani. Insomma, cercare di creare un clima di serenità, di equità e di giustizia. Bene, adesso mi sembra proprio che ci dobbiamo salutare, poi risbuco a un certo punto come sempre per ricordarvi giusto un riassunto delle notizie principali.